Venticinquesimo canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrata da Pierre. Ora era onde il salir non volea storpio, che il sole avea il cerchio di merigge lasciato al tauro e la notte allo scorpio, perché, come fa l'uom che non s'affigge ma vassi alla via sua, che egli appaia, se di bisogno stimolo trafigge. Così entrammo noi per la callaia, uno innanzi altro prendendo la scala che per altezze se alle torri spaia. E qual cicogni che leva l'ala per voglia di volare e non s'attenta ad abbandonar lo nido e giù la cala, tal era io con voglia accesa e spenta di dimandar, venendo infino all'atto che fa colui che dice e s'argomenta. Non lasciò, per l'andar che fosse ratto, lo dolce padre mio, ma disse: scocca l'arco del dir, che infino al ferro hai tratto. Allor sicuramente aprì la bocca e cominciai: come si può far magro là dove l'uopo nidodrir non tocca? Se t'ammentassi come l'agro si consumò al consumar d'un stizzo, non fora, disse, a te questo si agro. E se pensassi come al vostro guizzo guizza dentro lo specchio vostra image, ciò che par duro ti parrebbe vizzo. Ma perché dentro tuo voler t'adage, ecco qui stazio, e io lui chiamo e prego che sia or sanator delle tue piage. Se la veduta eterna di dislego, rispuose Stazio, là dove tu sie, discolpi me non potert'io far nego. Poi cominciò: se le parole mie, figlio, la mente tua guarda e riceve, lume ti fiero al come che tu die. Sangue perfetto, che poi non si beve dalla setate vene, e si rimane quasi l'alimento che di mensa leve, prende nel core a tutte membra umane virtute informativa, come quello che a farsi quelle per le vene vane. Ancor di gesto scende ove è più bello tacer che dire, e quindi poscia geme sovra il tuo sangue il natural vasello. Ivi s'accoglie l'uno e l'altro insieme, l'un disposto a patire e l'altro a fare per lo perfetto loco onde si preme. E, giunto lui, comincia ad operar coagulando prima e poi avviva ciò che per sua matera fe constare. Anima fatta la virtute attiva qual d'una pianta, intanto differente, che questa è in via e quella è già arriva. Tanto ovra poi che già si muove e sente, come spungo marino, e indi imprende ad organar le posse ond'è semente. Or si spiega, figliuolo, or si distende la virtù, che dal cor del generante, dove natura tutte membra intende. Ma come d'animal divegna fante, non vedi tu ancor, quest'è tal punto, che più savio di te fe già errante, sì che per sua dottrina fe disgiunto dall'anima il possibile intelletto, perché da lui non vide organo assunto. Apri alla verità che viene il petto, e sappi che sì tosto come al feto l'articular del celebre perfetto, lo motor primo a lui si volge lieto sovra tant'arte di natura, e spira spirito nuovo di vertù repleto, che ciò che trova attivo quivi tira in sua sostanzia e fassi un'alma sola che vive e sente e sé in sé rigira. E perché meno ammiri la parola? Guarda al calor del sole che si fa vino giunto all'amor che dalla vite cola. Quando l'achesis non ha più del lino, solvesi della carne e in virtute ne porta seco e l'umano il divino. l'altre potenze tutte quante mute, memoria, intelligenza e volontà ne in atto molto più che prima agute. Senza restarsi, per se stessa cade mirabilmente all'una delle rive, qui vi conosce prima le sue strade. Tosto che il loco lì la circoscrive, la virtù formativa raggia intorno così e quanto nelle membra vive. E come l'aere, quand'è ben piorno, per l'altro raggio che in sé si riflette, di diversi color diventa adorno, così l'aere vicin qui vi si mette, e in quella forma che in lui suggella virtualmente l'alma che ristette. E simigliante poi alla fiammella che segue il fuoco, là, ovunque si muta, segue lo spirito sua forma novella. Però, che quindi a poscia sua paruta è chiamata ombra, e quindi organa per ciascun sentire infino alla veduta. Quindi parliamo, e quindi ridiam noi, quindi facciam le lacrime e sospiri, che per lo monte aver sentiti puoi. Secondo che ci affliggono i disiri e gli altri affetti, l'ombra sfigura, e questa è la cagion di che tu miri. È già venuta l'ultima tortura sera per noi, e volto alla man destra ed eravamo attenti ad altra cura. Quivi la ripa fiamma in fuor balestra, e la cornice spira fiato in suso che la reflette e via da lei sequestra. Ond'irne convenia dal lato schiuso, ad uno, e io temeva al fuoco quinci, e quindi temeva cader giuso. Lo duca mio dicea, per questo loco si vuol tenere agli occhi stretto il freno, però che rar potrebbesi per poco. Summe Deus clemenzie, nel seno al grande ardore, allora udì cantando, che di volgermi fe caler non meno. E vidi spirti per la fiamma andando, perch'io guardava loro e ai miei passi compartendo la vista, a quando. Appresso il fine, che a quell'inno fassi, gridavano alto, Virum non conosco, indi ricominciavan l'inno bassi. Finitolo anco gridavan, al bosco si tenne Diana, ed Elice caccionne che di Venere avea sentito il tosco. Indi al cantar tornavano, indi donne gridavano, e mariti che fuor casti come virtute matrimonio imponne. E questo modo credo che lor basti per tutto il tempo che il fuoco li abbruscia. Con tal cura conviene e con tai pasti che la piaga da sezzo si ricuscia. Fine del 25° canto del Purgatorio.